Buonasera a tutti, amici di Gutenabend, benvenuti alla nostra presentazione del libro settimanale e herzlich willkommen a unserer Bücherbuchvorstellung. Abbiamo con noi questa sera Giovanni Messori, che è molto noto di Bolzano, soprattutto di Piazza delle Erbe, che come poco fa il dottor Rizzoli mi faceva notare, è una delle piazze più rappresentate fotograficamente, più presente, diciamo, come immagine rispetto ad altri luoghi e ad altri posti di Bolzano. E Giovanni Messori questa piazza la conosce molto bene e siamo molto contenti di averlo qui con noi, soprattutto che abbia avuto la voglia, il tempo, l'intuizione di scrivere un libro dedicato proprio a questo punto nevralgico della nostra città, che ha tanto da raccontare e dove passano tantissime persone. Probabilmente ogni bolzanino ci passa durante la settimana, anche se non per motivi di lavoro, perché la vive magari in un altro quartiere, ma sicuramente in Piazza delle Erbe, per Piazza delle Erbe ci passa. E in questa piccola introduzione che voglio fare per accompagnare Giovanni Messori nella sua così presentazione del libro, mi è venuto proprio in mente di chiedergli innanzitutto quando ha avuto questa intuizione, quando è venuta questa voglia di scrivere un libro e come ha iniziato questa avventura e come l'ha portata avanti. Se vuole prendere poi il suo microfono, ecco, quindi io introduco così Giovanni Messori e poi avremo comunque delle belle immagini preparate che ci descriveranno, che descriverà, ecco, ci accompagnerà con la sua illustrazione questi momenti della storia della Piazza delle Erbe. Il libro è qui, abbiamo preparato anche una vetrina tematica sempre relativa alla storia di Bolzano. Sulle sedie trovate forse una cartolina anche dei prossimi incontri. Se avete piacere di essere contattati, informati di quello che noi organizziamo settimanalmente, basta iscriversi alla biblioteca e lasciare la propria, il proprio indirizzo email. Giovanni Messori, a lei. Grazie a tutti. Un saluto a tutti quanti. Praticamente io ho fatto un percorso, può essere definito testo o raccolta, di quello che sono i 50 anni miei di Piazza Erbe. Attualmente io opero ancora in Piazza Erbe, con mansioni diverse. Potrei dire che sono 54 anni che lavoro in Piazza Erbe. Da molti, cioè io vorrei sensibilizzare che il lavoro di piazza è considerato un lavoro povero, ma invece è molto ricco, perché ti dà la possibilità di poter parlare e più che altro dialogare con le persone. E la Piazza Erbe, questo è il luogo adatto, sia come immagine del centro della città, che è una delle piazze più fotografate, e più che altro vorrei dire che molte persone in Piazza Erbe trovano l'incontro, la cultura e tutti i prodotti freschi dei produttori locali. E questo può essere un incentivo per frequentare Piazza Erbe, come detto, prodotti a chilometro zero. Questa, poi devo dire una cosa, tutti sanno che in regione, nella nostra regione, ci sono tre gruppi linguistici, l'italiano, il tedesco e il ladino. E questo è una cosa, e tutti quanti queste etnie hanno un discorso di, possiamo dire, di cultura e tradizione per l'Alto Adige. Nel mio testo, o raccolta, come la si voglia chiamare, ho incluso 13 capitoli. Questi capitoli vanno a significare questo percorso dei 50 anni in Piazza Erbe. Dopo le tre scuole d'obbligo, nei mesi estivi il sottoscritto aiutava già nei banchetti. Dopo sono riuscito, praticamente col mio comportamento, ad avere il posto fisso in una bancarella, e questo è molto importante. Già allora, vado indietro di 50 anni, poi da garzone sono passato a dipendente effettivo e poi titolare della bancarella. Tutti i prodotti che io ho venduto nella bancarella ho sempre cercato di documentarmi dalla A alla Z. Sono tutti prodotti che sono molto indispensabili anche da poter a tutte le persone che ti chiedono in vari periodi dell'anno questi prodotti, che funzione hanno praticamente. Si può dire che la maggior parte di questi prodotti venivano dai produttori locali anni addietro, ed era un vanto per i produttori locali, appena usciva un prodotto, portarlo in pianta verde. Ed era anche un discorso a livello dei ristoratori di Bolzano. Era un vantaggio perché in ogni periodo e in ogni stagione arrivavano a prelevare queste verdure, praticamente in primavera, nell'estate, in autunno. Poi posso dire, inoltrare un altro discorso, che nel 1957 è stato aperto il mercato comune europeo. Allora lì hanno incominciato ad arrivare determinati prodotti da altri stati. Qui già nel 1960 sulle bancarelle c'erano dei prodotti che abbiamo cercato di farli conoscere al consumatore, quello che può essere la frutta esotica. Però nell'insieme di tutti questi prodotti siamo riusciti sempre a dare la freschezza giornaliera, e questo è indispensabile. Dunque, non vorrei dilungarmi molto su questo particolare e farvi vedere già delle foto che io ho messo all'interno di questo mio testo, perché il mio testo è molto fotografato. Più che altro sono foto, stampe, cartoline. Un ringraziamento particolare anche lo devo al dottor Rizzoli, che mi ha fatto l'introduzione o la prefazione del libro. Poi tutti coloro che anche hanno partecipato come titolari delle bancarelle stesse, che mi hanno dato delle loro foto. In particolare devo ringraziare anche il numismatico Six, che ha collaborato molto per la mia ricerca, e sono riuscito, ho avuto un appoggio non indifferente sia dall'archivio storico, poi dal dottor Rizzoli di nuovo per Castelmariccio, che ci sono anche altre foto, documentazioni varie, dal Museo Civico e poi vari enti con cui io ho collaborato. Il mio lavoro di piazza, devo dire che a me ha dato moltissimo sotto il fattore umano, di cultura. Più che altro io continuo a insistere che sul mercato c'è molto dialogo. Attualmente ci sono altre etnie, però è un punto di incontro della città di Bolzano. Non vorrei dilungarmi troppo e vorrei passare già a farvi vedere quello che ho inserito nel testo. Allora, il testo per conto mio è Piazza Erbe, l'anima del centro storico. Prima di tutto, molti non sanno anche che Piazza Erbe è partita molti secoli fa. Questa praticamente è un disegno del 1100 di come era Bolzano. Praticamente era contornato da un fossato e vi erano tre torri. Adesso passiamo subito come è nata Piazza Erbe. Praticamente quella parte scura che voi vedete era il fossato di Bolzano. In quel periodo chi regnava in Alto Adige era il conte Mainardo II. Lui fece smantellare le mura e fece ricoprire tutto il fossato, perché all'inizio, quando c'era il fossato, l'entrata nella Bolzano era con il ponte levatoio. Lui fece smantellare tutte le mura, e praticamente perché Bolzano si potesse espandere. Proseguo. Vedete via Portici, che era già allora, già nel 1100, in quella precedente, che ritorno su foto precedente, all'interno dei portici vi erano già tutti i negozi con praticamente mercanti italiani, tedeschi e di altre nazionalità. Proseguo. Qui ritorniamo di nuovo. La piazza praticamente è definita Piazza Erbe, ma potrebbe essere definita un largo, e sono praticamente 110 metri effettivi da via Ghette fino sopra, da via Streiter e via Francescana. Proseguo? Ecco, in questa immagine di Piazza Erbe, questa è la famosa festa dei bottai, che poi già nel 1750-1800 erano molto rinomati i bottai in Bolzano. Era definito l'artigiano del legno, che poi aveva varie funzioni, lavoravano con varie tipologie di legni, perché c'era il prodotto che poteva essere usufruito per il trasporto sia per terra che per mare, per la praticità d'uso, no? Poi andiamo a pensare che in Alto Adige, già allora, questo è del 1790, questo è un disegno che è al Museo Civico di Via Cassa di Risparmio, non è esposto, però è all'interno del Museo Civico. Qui c'è da notare una cosa: dove c'erano i drappi rossi in quel caseggiato, lì vi erano i regnanti di allora che vedevano la manifestazione dei bottai. A fianco c'è quella piccola costruzione più bassa, poi c'è quell'altra, perché sotto quella costruzione più bassa c'era la porta d'entrata per entrare in Piazza Erbe. Diciamo che poi intorno al 1800 viene smantellata quella parte più bassa e quell'altra vicino un attimino, e lì nasce via Museo per l'entrata in città. Proseguo e vediamo. Questo è l'albergo Sole o l'albergo Sonne. Questo è alla fine di via Museo, cioè dall'interno della piazza, noi lo vediamo sulla nostra sinistra. La struttura dell'immobile ha subito qualche aggiornamento, però questo è nato nel 1874. Questo di fronte, anzi, ritorniamo proseguiamo sull'immagine dell'albergo Sonne. Qui lo vediamo benissimo, vediamo la parte, praticamente il caseggiato più basso che c'era qui a fianco era dove i regnanti guardavano le manifestazioni della piazza. Qui sulla destra vediamo l'immagine, praticamente com'è attuale al giorno d'oggi, dell'ex albergo Sonne. Di fronte abbiamo il Torchio. Qui a suo tempo era una costruzione, un immobile del 1200, e poi intorno al 1900, così, diciamo che nel XVII secolo è stato ristrutturato ed è rimasto sempre uguale. Sia l'albergo che il Torchio hanno ospitato grandissimi nomi. Vado a menzionare solo Goethe, tanto per dire, ed erano affascinati da quello che potevano essere i colori delle merci esposte in Piazza Erbe. Vado? Allora, la fontana del, di un artista di Fie del 1475 viene posizionata nel 1777 in Piazza Erbe. In quel posto c'era la gogna, che non faceva piacere a qualcuno, insomma. Ecco, la mettiamo così, no? Praticamente la funzione era per dar da bere alle persone gratuitamente, perché non potevano permettersi di andare nelle osterie e spendere dei quattrini. Proseguo. Ho due immagini da tenere molto in considerazione attualmente. Questa è una nevicata del 1962. Già allora, qui vediamo praticamente i barconi del pesce, quella fontana vicino, lì venivano introdotte le trotte vive, e chi arrivava al mercato del pesce, che veniva fatto sui banchi in marmo, cioè fish bank praticamente, che poi quel fish bank parte dal Medioevo, le trotte venivano pescate con retino e vendute al momento. In quel periodo lì, dietro la fontana, c'era anche un bar che praticamente in autunno offriva i suoi prodotti, praticamente il vino nuovo. Questa immagine qui è del 1965. Anzi, 1986, quella di prima era del 62. Questa è stata una grande nevicata, una delle più grosse nevicate, che i mucchi, praticamente tutte le bancarelle, avevano subito dei danni, perché molti non sanno che il peso della neve per metro quadro è veramente eccessivo. Praticamente 10 centimetri in un metro quadro di neve fresca e asciutta sono 30 kg. Provate a pensare su un telone, praticamente di una copertura di un banchetto, quando la neve è bagnata, che peso possa avere? Ogni telone di un banchetto può essere 15-16 metri quadri. E lì praticamente le strutture cedevano. Allora, questa è una. Nel testo ho inserito parecchie cartoline e dei quadri di pittore. Un appoggio notevole per la Piazza Erbe è sempre stato dagli commercianti di Via Portici. Perché? Prima di tutto perché il mercato, da quando esiste il mercato, è un portatore di persone, un portatore di gente. prima tutte le persone arrivano in un mercato e poi si riversano nel commercio fisso. Pensate che sotto i portici vi erano due negozi meravigliosi di dolciumi, così erano. All'inizio c'era Fulter e alla fine dei portici questo Rindler, che era meraviglioso. Chi entrava lì usciva con gli occhi va bene, questo fa parte di alcune pagine di cartoline storiche. Ecco, adesso passiamo a quello che può essere la creatività di ognuno dei banchetti. Questa è una foto del 1906. Tanto per vedere, c'era una quantità di merce sopra il banchetto. Al di sotto del banchetto ci sono delle ceste. Queste ceste venivano utilizzate sia per le spedizioni o dai turisti per l'asporto della frutta in vari periodi. C'era un po' di, praticamente, poi dobbiamo pensare che in regione c'era una grossa quantità di funghi, frutti di bosco, in vari periodi avevamo differenti varietà di frutta e verdura. Questo riguarda il 1906. Già allora c'era una bella variazione di colori anche. Questa invece è un'immagine del primo maggio del 1930. Qui c'è da notare una cosa che è molto bella, eh? Il gelataio col carrettino. Ed è anche molto significativa per vedere la prudenza che c'era in Piazza Erbe sempre. Vado a fare una piccola parentesi su. Allora, nel 1950 erano 54 punti vendita in Piazza Erbe. Nell'86 si sono ridotti perché qualcuno è arrivato all'età pensionabile e le nuove generazioni non volevano più. Siamo poi arrivati al 2004 e sono 23 punti vendita, tra cui ci sono dei, lì sono stati introdotti due panifici, poi praticamente dei succhi di frutta, e dove c'erano le piazzole dei banchetti lì sono stati messi degli stand occupati dai tavolini dei bar, per avere un'immagine completa. Io quello che posso dire è che Piazza Erbe attira sempre gente, però sarebbe un peccato se viene a mancare. E non è che soffre il centro storico, soffre tutto il commercio del centro storico. Questo io non sono più che convinto. A riguardo del primo maggio, è una festività questa. Questo è il mercato dei fiori, che anche si svolgeva sempre il primo maggio in Piazza Erbe, poi era Piazza Erbe, Via Argentieri, come se fosse un'unica piazza. Poi al giorno d'oggi è in Piazza Walter, che già si ripete sempre per fattore, però era molto positivo che rimanesse in Piazza Erbe. Non vorrei dimenticare una persona che è stata una figura eccezionale come collega di lavoro e tutto quanto, in piazza. Non so se vi ricordate di Tonino Cattori. Ecco. Lui era una figura che faceva parte della Piazza Erbe. Era l'attrazione di tutti i bimbi, perché in varie stagioni, il carnevale, il Natale, aveva delle un'oggettistica particolare per i bimbi. Qui è molto ridotto, però cartolini, piccoli giochi, e questa è stata anche un periodo bellissimo. Lui era sempre vicino al punto vendita praticamente del Birchenstand, che anche lì ci sono delle foto che io ho preso, all'inizio c'è una foto che aveva una stufa col camino per scaldare i virus. Lì però tante foto io non è che ve le posso vedere tutte, perché dovete visionare il libro, no? Andando oltre, una cosa molto valida di piacerebbe anche, dobbiamo tenere in considerazione la religione. Ecco, questa è la partecipazione alle varie processioni. Una processione molto importante, che sarebbe, era stata definita la grande, era quella del Corpus Domini, che poi, dopo 3 settimane del Corpus Domini, c'è un'altra processione e poi ci sono i fuochi sulle montagne, quella del Sacro Cuore. All'inizio tutte le processioni partivano dal Duomo, facevano via Goethe, piazza Erbe, arrivavano sopra i via Francescani, via Vintola, via Bottai, ritornavano praticamente sotto i portici. Devo precisare una cosa, che in piazza Erbe veniva fatto un altare, l'altro altare veniva posizionato sui via Bottai, l'altro davanti alla casa Mummelter sotto i portici. Quello che è rimasto di quell'altare lo trovate al Museo Civico di via Museo. Quello è ancora esposto. Qui c'era una massima partecipazione da parte della cittadinanza e tutte quante le autorità, sempre, e c'erano costumi dell'epoca, le bande, c'era tutto, no? Molto significativa la cosa. Questo molti non sanno che cosa possa essere. Questa è chiamata stipa pennata, è un filamento che cresce da noi in regione o nelle zone fredde. Adesso passo alla foto seguente. Ecco, è sul copricapo delle bande, in special modo quella di Fie Castelrotto. Questo piumino, stipa pennata, oppure Steinfeder, è chiamato in tedesco, nei periodi asciutti è così vaporoso, è come un segnatempo, e nei periodi umidi è proprio un filamento. Però vederlo sopra un copricapo è simpaticissimo, e questo in particolare nella banda di Fie e Castelrotto. Tutto il mio lavoro, tutto quello che io ho percepito da parte dei miei titolari, ho sempre allargato il discorso tutto nel comparto dell'ortofrutta, frutta e verdura. Loro mi hanno insegnato anche a esporre, poi mi sono specializzato anche nel comporre, fare composizioni varie. E nel testo troverete delle foto dove io praticamente ho fatto delle esposizioni per la Camera di Commercio, per le fiere, per la provincia. Ho avuto modo di valorizzare tutti questi prodotti. Attenzione, su tutti i prodotti che abbiamo, ho voluto menzionare, nel periodo primaverile, gli asparagi, perché ci sono già molti coltivatori qui da noi di asparagi, con varie verdure. Perché un fattore molto importante della regione cos'è? Che abbiamo un clima molto favorevole per determinati prodotti, di notte fresco e di giorno una temperatura calda, quando c'è il sole. E questo è positivo per tutto quello che è il comparto della frutta e della verdura. Nei prodotti che io ho voluto anche menzionare ci sono maggiormente anche il discorso delle mele, nella lavorazione delle mele, cioè il raccolto, la lavorazione, l'immagazzimento, la lavorazione nel regalo, poi come vi dicevo precedentemente, per le botti, pensate che le mele venivano messe dentro le botti per il trasporto in mare, per la praticità. I due stranti venivano messe tutte una in costa all'altra e poi venivano messe alla rinfusa e poi sopra con della carta, paglia, quella che si usava una volta per il formaggio che voi vedevate di color giallo o grigia, veniva praticamente chiuso e poi chiuso la botte. E questo c'è in parecchie foto, poi venivano già molte persone, molto, diciamo anche nei consorzi, lavoravano con questo sistema e ci sono delle foto adeguate. Arriviamo nei mesi estivi, come dicevo, abbiamo i funghi, i frutti di bosco che sono molto indispensabili come fattore proteico. Nei mesi, diciamo, in settembre, come tradizione dell'Alto Adige, c'è il Törpede a fare. Il Törpede, che praticamente è un ritrovarsi con gli amici, poi si finisce sempre attorno a una tavola. E questo è molto piacevole. E lì possiamo notare il cambiamento della natura. I boschi hanno dei colori meravigliosi. In quel periodo dell'autunno, praticamente a settembre, abbiamo, ho menzionato due prodotti che sono meravigliosi. Uno che oramai è quasi in estinzione, perché erano piante secolari. È una noce abbastanza di pezzatura, abbastanza grossa, era definita papyrus, perché praticamente questa noce, tu riuscivi ad aprirla, potevi togliere la pellicina dal griglio e, come c'erano le vecchie usanze, si mangiava pane e noci. Ecco questo. Un altro prodotto del periodo sono le castagne. Attenzione che abbiamo un prodotto della castagna in Alto Adige che è meraviglioso. E anche lì ho messo la distinzione per quello che può essere il primo prodotto, il secondo e la definizione del vero marrone. Perché se nella castagna voi trovate due frutti, è una castagna. Se ce n'è uno solo, è un marrone. Però lo si distingue, praticamente parlando chiaro, dalla parte finale della castagna, perché è una parte marroncino chiaro ma rettangolare, di forma rettangolare. Poi quello che può essere le festività, ecco, questa è la natura, una foto sulla natura. Io questa l'ho capita un giorno passando sul ponte d'Albara e guardando sotto nella ciclabile c'è questa sequenza di alberi. Attualmente in primavera è tutto verde, in autunno assume questi colori. Ecco, questa è una cosa che praticamente nelle festività in dicembre era molto sentita lì dietro la rute o la frusta, che poi è abbinata a quello che può essere anche le maschere, i diavoli nei vari paesi, perché dobbiamo pensare che questa frusta qui aveva un significato ben valido. Per i bambini buoni ricevevano questa dorata con le noci, le noccioline e i fiocchetti. Invece per i bambini cattivi ricevevano la frusta nuda e cruda praticamente, però i bambini cattivi si trovavano il carbone, invece i bambini buoni trovavano il mandarino, le caramelle Rossanna, proprio piccole cose. E per questo è per il periodo del Nikolaus e il Krampus, cioè il 5 e il 6 di dicembre. Io avrei completato il mio discorso, volevo dire, spero che verrà apprezzato, perché io ho fatto una piccola sintesi di quello che ho inserito nel libro. Una cosa mia molto personale, che spero proprio, come ho detto precedentemente, non vorrei che Piazza Erbe andasse a morire. Sono molto tradizionalista, perché sarebbe un grosso guaio per il centro di Bolzano, sia come immagine turistica e anche soprattutto come immagine di colori. Devo solo ringraziarvi. Grazie di nuovo. Non so se il dottor Rizzoli vuole... Io ne sono molto contento, anche perché il dottor Rizzoli mi ha cucito addosso l'introduzione del libro, come se fosse un abito. No. Guardi, la ringrazio di nuovo per tutta la collaborazione, è come se fossi vestito a festa. Va bene? Castagnone ed è più bombato, sì. E ha un colore diverso da quello che può essere il marrone, perché il marrone c'è quella tonalità di colore tra il marrone e un giallo anche, mm-hmm, all'interno, ha delle strigliature, però la prima castagna non è a lunga conservazione, cioè tutti e tre i prodotti non sono a lunga conservazione, attenzione, tengono un po' di più trattandoli in una certa maniera, però la prima è più farinosa. Le castagne piccole, un po' più grandi, anche quando si mangiano, hanno molto sapore. E il marrone sarebbe il top, praticamente. Volevo raccontarvi una storia che mi è successa 2 anni fa, sotto Natale, che ho preso un shock. Sono camminato in via Goethe e ho trovato un turista italiano che è venuto a Bolzano per un mancatino di Natale. E quello mi chiede: dov'è qua il mercato dei pakistani? Allora io ho detto: sì, non c'è problema, basta andare lì dove c'è Piazza di Carano, lì ci sono le panchine, tutte queste associazioni, basta andare lì. No, lì dove ci sono tutta la frutta secca, lì dove sono i pakistani. E lui intendeva piacere. Sì, purtroppo siamo arrivati a questo discorso. Guardi, su questo discorso sarebbe un libro aperto. Ecco, perché non mi permetto di dare, io come ho detto e come ho descritto ogni tanto nel testo, ho messo sotto. Spero che gli organi competenti tengano in considerazione il valore della piazza. Ecco, questo è il mio discorso di fondo. Ci parliamo proprio che... Sì. Qui c'è anche la signora Cone, abbiamo cercato veramente che le piazze, che questa piazza non si svuoti, no? Sì. Perciò abbiamo introdotto, perché era stato dedicato, due banchi che vengono in palla, no? Sì, sì. E abbiamo avuto il coraggio di dire: piuttosto di avere solo frutta secca e banchi vuoti, piuttosto mettiamo il pane, perché il pane fa parte nazionale. Abbiamo però detto: deve essere, se ricorda, come ha fatto lo statuto, un pane fatto in modo artigianale. Perché noi siamo un polo nord del pane bianco, almeno nel passato, un polo sud del pane di segale, sì. E qui proprio c'è una variazione di non solo di frutta, ma anche di pane bianco, e la gente si porta dietro dei sacchi pieni. Sì, perché poi scendendo nelle varie regioni non c'è la cultura del pane con le segale, perché pensiamo che il pane con le segale rimane nella parte superiore, no, proprio nell'Italia settentrionale, no? Perché Ad esempio, in questi giorni io ho scoperto un'altra cosa. In Badia, diciamo, perché tanti il Finchkerl, no? Il Finchkerl, il segala, Pinocchio e Pomino. Poi in Badia viene usata segala chiara, Finocchio e Pomino, e praticamente il Forsla loro lo chiamano anche Finchkerl, però non è giusto, perché la traduzione praticamente hanno detto in italiano sarebbe un pane nato male, perché, e questo è, poi dobbiamo pensare che il fatto delle farine, come dicevo prima, del clima in Alto Adige, la Venosta era il granaio dell'Alto Adige, eh? Dobbiamo tenere presente questo, perché il frumento era limitato nelle culture, praticamente c'era la selva, l'orto, c'erano determinati altri prodotti. Un lema credo che si dovrebbe sottolineare: vi ricordate quante specie di mele noi avevamo? E questi c'erano il champagne, sì, che era la mela che andava bene per i diabetici, perché il champagne non ha quel consumo di zucchero. Poi c'erano i Stamperpedern, di Azzorre, tutte queste specie sparite. Sono sparite, e questo è quello che noi troviamo anche in altri settori. Avevamo talmente tanti prodotti differenti, invece adesso è tutto standardizzato, e questo è il problema, che le catene adesso fanno concorrenza, perché non ci distinguiamo più. Noi dovevamo distinguerci, o cerchiamo di distinguerci, allora tutto bene. Se ci arrivano le mail cinesi, Io ho inserito nel testo 60 varietà di mele che io ho lavorato, perché noi, quando io avevo la bancarella o il banco, arrivavamo a giornate con 20 varietà, perché facevo conoscere il prodotto nuovo e il prodotto in estensione. Una delle mele che tanti oggigiorno non la conoscono, che è questa mela, cioè, nata nell'Asia, passa in Turchia, passa in Grecia, poi arriva, e già al periodo degli Egizi è approdata in Italia nei monasteri, è la Goldberne, la palma d'oro, sì. Praticamente è una meletta piccola che uno la vede con queste strigliature giallo, rossa e arancione, però buonissima, è un agrodolce delicatissimo, no? Poi una mela che tanti magari non conoscono è la Weisser Calvilla, la Calvilla una volta, la Bianca Calvilla, pensate che la Bianca Calvilla era il nome di una principessa, era l'unica mela che arrivava sulle tavole dello zar di Russia e costava un soldo. Le culture più all'avanguardia era la Val Venosta, perché quando crescevano le incartavano una per una anche. Poi, come dicevo, con il clima freddo di notte e caldo di giorno, prendevano quella sfaccettatura rosa. Ma il problema di Piazza delle Erbe purtroppo è che i giovani, quelli che dovrebbero subentrare nelle attività dei padri, così, non hanno più voglia di fare i sacrifici. Io lo dico in Piazza Erbe, le dico subito, in Piazza Erbe noi iniziavamo alle 6 del mattino, esatto, 5 metro, e si arrivava, quando sono entrato io in Piazza Erbe nel 62-63, l'orario di lavoro praticamente, anche se potevo cominciare più tardi, si iniziava così a quell'ora e andavo a casa alle 8 di sera, alle 6 fino alle 8 di sera, e la domenica mattina era dalle fino all'una, perché la domenica mattina aspettavamo i pullman dei turisti, perché la prima attrazione per un turista che arrivava da fuori, oltre Alpe, era Piazza Erbe, però in quel periodo c'era, non c'era il parcheggio in Piazza Walter, e lì potevano parcheggiare sopra. C'era il transito in via Argentieri. Io mi ricordo che in quel periodo vendavamo tanto, perché arrivavano e potevano sostare in via Argentieri, prendevano le merci, caricavano e andavano via. Il vantaggio della, poi quando è arrivata la grossa distribuzione, ha penalizzato tutti. Erano prima delle 6 alle 5, sì, e sì, sì, c'era sì. Il bar dove tutti prendevano il caffè corretto, più caro. Con la rugna, con la rugna, con la rugna. Un inverno molto caldo d'estate, perché e lì c'erano temperature che viaggiavano a volte anche meno 12, meno 14. Dovete calcolare che determinata frutta come le arance diventavano trasparenti. Però una volta che si gelavano dovevi buttarle via perché erano di un amaro. E poi forse io vorrei sottolineare una cosa. Allora, prima di tutto questo vivo è importantissimo, perché io devo veramente ringraziare al signor Messori, perché è uno dei pochi che riesce con la sua passione a spiegare il prodotto, perché è inutile se noi abbiamo qualcuno dietro che non mastica neanche la lingua né l'una né l'altra. Questo è un problema, non siamo nazisti, però guardate che la terza lingua non è più il latino, è il largo. Sì, io non so di largo. Guardiamo la terza lingua, dopo il tedesco, italiano e l'altro. Non c'è niente contro, niente. Però come fa uno a spiegare come il signor Messori, anche spiegando, cos'è il prodotto? Perché bisogna conoscere il prodotto. Io sono, anche se entro in un negozio, mi chiedo di che cosa è fatto questa giacca, uno lo deve sapere, me lo deve spiegare, perché allora capisco anche che può costare di più. Per esempio, se queste mele, non so, domani saranno biologiche, solo biologiche, speriamo, devo spiegare. E questo, perciò ringrazio, perché questo è un libro, spero, di un, diciamo, specie di venditori che sono, spero, non in estinzione. Questo speriamo. Speriamo che non sia l'ultimo dei moicani. Questo è quello che noi vogliamo. Perché il consumatore deve essere anche, e lui è un altro esempio, deve essere, diciamo, coinvolto quando compra, consigliato. Io mi ricordo questo signore germanico, quando io ero ancora in negozio, così mi fa: ma io non gli ho chiesto nulla quando gli ho spiegato la merce. Cioè, sono talmente, questa è stata la prima volta che mi sono accorto che questo self-service è tale che certa gente sente, addirittura si sente quasi assediata da chi spiega la cosa. Questo io sono scusato però io ho solo detto, questo non vuol dire che lei deve comprare, perché se si spiega la roba questo di spiegare fa parte della serietà professionale, certo. Come presenti un prodotto, sì, per quanto mio. Perché a un certo momento, se tu presenti un prodotto, dai un consiglio, oggi non lo comprerà, ma il giorno seguente magari viene e lo compra, insomma lo prende. Se ne accorgerà, se mettiamo una scarpa di buccia e lui non sa perché, perché c'è una fodera di pelle di cavallo e lui non lo sa, che costa molto meno dell'impello, per dire, e non sa perché suda in certe scarpe, ma altre non suda, perché non so. Quando mangio una mela che non è buona, addirittura si sente gonfiato, no? E anche la frutta, l'insalata, come trattata. Questo credo che sia il futuro. Il futuro deve essere piacere, deve essere una nicchia di mercato, di prodotti particolari. E poi ci vogliono gli ambasciatori, come un'ultima cosa ti dico sulle mele, tanti non lo sanno, però mangiando una mela fresca è senza glutine. Questo non lo sapevano tante persone, non lo sanno, però una volta c'erano parecchie mele tenere, però non erano a lunga conservazione. Oggigiorno cosa ci sono? 10-12 varietà, poi sono tutte uguali da tutte le parti, però provate a dentare una mela a un certo momento, o uno ha tutti i denti sani in bocca, riesce a dentare una mela, se no per qualcuno che è diversamente giovane è un altro discorso, ecco, finisco il discorso così. Va bene. Si è mangiata fresca. Mangiata fresca. E poi anche quello che si usa con già insetti, così. Una volta i trattamenti erano 8, attualmente i trattamenti sono fatti a 3, però certi insetti sono diventati più resistenti. Noi usavamo a modo i famosi cosi E605, per esempio, no? E605 è un veleno fortissimo, oggi per fortuna forbito, genuale. Però comunque però ci sono delle alternative che certo, ma si dovrebbe spiegare, sa benissimo e lo spiega anche, che una mela perfetta è pericolosa. Che poi certi testi non portano che era una mela, era un fico. Certo. Andando almeno a parer mio, mi sembra di aver letto così, che non era una mela ma bensì un fico. Sì, perché allora l'albero è stato trattato, no? E se lei guarda tutti questi alberi, oramai tutti bassissimi, no? Da dove vengono queste specie? Manca una che è autoctona, c'è solo una che è autoctona, che è il famoso Dachstein. C'è il Dachstein che è la prima mela, no? Che non a caso si chiama Dachstein perché era il conte del Tirolo che l'aveva nel suo pomerio, no? Non a caso. E le altre mele da dove vengono? Tutte dalla Nuova Zelanda. Il Golden, Stark, eccetera, sono tutte specie che noi importiamo. Sì, i contadini sono diventati dei farmaci, no? Perciò credo che sia importante anche parlare del prodotto come lui lo fa, di tutte queste specie del tempo, no? E perciò è importante perché non trovo facilmente un vivo. No, perché poi nella mela abbiamo un 83% d'acqua e il resto sono vitamine, zuccheri e tutto insieme, no? E più il contenuto di vitamine è sempre nella buccia, nella buccia, e devono la buccia, no? Questo mi piace. Sì. Va bene, posso chiedere una cosa? Sì, perché modificare i regolamenti della piazza per poter inserire delle nuove tecnologie e arrivavamo veramente in consiglio comunale delle persone che erano contrarie chiaramente perché volevano mantenere la piazza così com'era tutte le due. Però purtroppo se i banchi chiudevano brutti, molto brutti da vedere, questi banchi vuoti, chiusi, ecco, allora piuttosto che vedere il banco vuoto è più bello vedere un banco con il pane, chiaro, non con l'abbigliamento, questo assolutamente no, abbiamo cercato in tutti i modi di non avere questo tipo di graziologia, però di parte di qualche altra cosa che avevamo inserito, succhi. Allora, perché purtroppo non c'è il subentro, diciamo non ci sono più persone che, come dicevo prima, che vogliono fare il commerciante in piazza delle Erbe, che in effetti è stato detto che bisogna alzarsi presto, ma bisogna andare anche al mercato generale, ad acquistare la merce, perché ecco, poi la sera puoi portarla lì, metterla bene, fare proprio certe vigili annonali che venivano e verificavano che tutto fosse in ordine, perché in effetti la merce non era buttata così, doveva essere messa in un determinato modo, e quindi anche quello era un lavoro, insomma. Poi la sera non è che tu puoi alle 7 chiudere, ti dici la sala cinesca e vai via, no, devi prendere tutta la merce, metterla via e metterla o sotto oppure in un magazzino che anche se il professore aveva da un'altra parte, portare la mattina la stessa cosa. Quindi è un lavoro piuttosto complesso, piuttosto faticoso, e poi non devi guardare alle ore. E poi i gatti lo al caldo, e non c'è più nessuno che dei giovani, ma anche non giovani, che vogliono fare questo tipo di lavoro. È per questo che la piazza sta morendo. E poi abbiamo il problema che, insomma, c'era uno statuto da Piazza Erbe del 1487, io come storico dell'economia dovevo spiegare all'opposizione che questo statuto, o secondo questo statuto, facevo, lo faccio tuttora, il professore Innsbruck all'università, dovevo spiegare però all'opposizione, che non erano i miei allievi naturalmente, o i miei studenti, che in questo statuto, se ricorda, c'erano citati polli anche, si poteva anche in Piazza Erbe vendere polli, poi uova e anche sì, che se poi andiamo in al momento che sono subentrato io, se si ricorda, c'era Botta all'inizio di via Spreiter, era l'unico che aveva la selvaggina appesa alle ocche, dice, no, c'è una foto dentro che vedete le ocche appese. Questi sono anche gli aspetti sanitari che sono cambiati, sono completamente cambiati da una volta, quindi una volta il pesce si poteva vendere così sui banchi del pesce che si trovano adesso. Se ricorda, c'era l'idea di mettere un banco di pesci in Piazza Erbe, che abbiamo contestato in modo veramente feroce, perché i banchi di pesce non erano mai di posti soleggiati, e Piazza Erbe è un posto anche piuttosto soleggiato, perciò i banchi di pesce era vicino al municipio, questo in tutte le città medievali, affinché, diciamo, la gente del municipio poteva controllare se il pesce era fresco o non fresco. Sì, dovevano, c'è tutto lo statuto, dovevano poi distruggere davanti a tutti il cosiddetto pesce marcio. Perciò il primo banco dei pesci non era dietro in via dello Spagna, ma era davanti accanto al municipio, al vecchio municipio, affinché fosse sotto l'occhio vigile del sindaco e dei suoi naturalmente impiegati, no? Cioè c'è tutto un sistema, ma c'era uno che poi mi ha fatto la guerra, se ricorda, perché non abbiamo permesso il banco di pesce accanto alla frutta, poi facciamo perdere anche l'odore d'estate. Piazza Erbe è sempre stata combattuta, speriamo che con questo libro e con dovrebbe con sensibilizzare le nuove generazioni, ma non penso. Una cosa che il consiglio che io posso solo dare per salvare Piazza Erbe, andate lì a comprare e allora salvate la piazza, per tutto il resto sono piazza. Sì, credo che poi essere consigliato, no? E chi era deve cercare di provare le nicchie di mercato, per esempio le noci che lei ha citato, le noci se non si dica papiro, se questa non si è grossa, oramai sono quasi in estinzione. A casa mia davanti, niente, devo denunciare, c'è un insetto oramai che rovina completamente questa specie di noci. Niente da fare. Niente da fare, cioè anche in questa è cambiato. Per esempio, io ho sempre raccolto olive a Bolzano, perché è andato nel 62 un albero di oliva che adesso è alto come la casa, le olive non si possono più usare, o lei usa dei chimici, non so che cosa, altrimenti c'è questa mosca delle olive. Le olive che abbiamo raccolto l'anno scorso, forse il 20% si può usare, perché sono olive mosse così, ma se c'è il metto lenta come si fa? Cioè anche questo è un cambiamento di clima, un cambiamento di... insomma, è quello che cade dal cielo con le acque piovane. Non c'entra, però noi eravamo sempre a mangiare in terrazza la sera, a mezzogiorno. Sì, bello, no? Perché insomma, abbiamo un clima. E poi dove lei. Sì, ma dobbiamo rinunciare, sa? Dobbiamo rinunciare, perché c'è questa zanzara tigre che non c'è stato. Cioè, cambiato molto. Sì, sì. Noi siamo quasi vicini. Esatto. C'è questa. Io volevo complimentarmi poi anch'io con lei, professori, perché veramente ho dato un'occhiata, adesso lo prenderò. Adesso. Deve essere ricordata proprio anche con le foto storiche, con quello che è successo anche prima, e a non dimenticare anche questo tipo di attività che c'erano. Io ho detto basta che non facciano come gli alberi, per vedere gli anni che mi sentino.